conseguiti il convegno non condurranno necessariamente a incontrare. La mia intenzione è quella di, perché parlare di una, per una tipologia di silenzio, per vedere se è possibile, oltre a sfatare alcuni luoghi comuni sul silenzio, che gli altri relatori già hanno sfatato, a individuare una classificazione possibile degli atti silenziosi in relazione al modello della comunicazione. E nel frattempo, visto che anche le esperienze personali in qualche modo incidono sulla personale, nel senso della concretezza del proprio lavoro, incidono sui propri programmi, un lavoro abbastanza sistematico sulla Divina Commedia mi ha condotto a portarvi qui, a titolo puramente di riflessione, alcuni dati documentari che sono tratti da Dante, non tanto dalla sua teoria linguistica, quanto piuttosto dall'esperienza che si trae da una lettura completa della Divina Commedia, quale quella che ho fatto io ultimamente, per esigenze di registrazione televisiva. E vedremo poi se qualche tempo ci sarà che cosa significa l'esperienza del silenzio e della applicata alla Divina Commedia nel caso appunto di una registrazione completa dei canti che andrà in onda in televisione a partire dal 1° di aprile dell'anno prossimo. In contrasto con la dimensione della oralità, delle voci della natura e delle voci mistiche della famiglia di Dante, e in contrasto con quel canto che Baldini prima aveva sollecitato, cioè della voce che è collegata alla strumentalità musicale, alle voci della natura, alle voci delle larve, delle anime dell'altro mondo. E poi soprattutto a questa voce poetica di Dante, che è persino voce onomatopeica, perché in un canto della Commedia c'è anche un'onomatopea, un sinfine di campana, molto lieve e molto suadente. Dunque, l'idea di affrontare una tipologia di silenzio parte anzitutto da una constatazione, e cioè che un signore deve fare, e cioè che tutto ciò che un fenomeno che si registra attualmente è la etichetta di comunicativo che viene attribuita con molta facilità a qualunque evento, a qualunque fenomeno e a qualunque situazione. Come se questa parola comunicativo di per se stesso fosse in qualche modo utile a inquadrare il problema e a sollecitarlo in una direzione. Se invece si riflette sul valore preciso della propria comunicazione, si intende che la comunicazione comporta una qualche solidarietà, un qualche incontro tra il mittente e il destinatario, si vedrà quanto è più selettivo e più delicato l'uso di questo termine. Dunque, in qualche modo, non so se paradossalmente o in modo provocatorio, bisognerebbe cominciare a dividere gli atti, i silenzi che sono comunicativi dai silenzi che non sono per nulla comunicativi. Prima ancora, molto probabilmente, nella fenomenologia del silenzio, i silenzi che sono fisiologici, e cioè tutti quegli atti silenziosi che noi compiamo al di fuori di un'intenzionalità e al di fuori di una volontà comunicativa. La stessa lieve pausa che intercorre tra una parola e l'altra, e che permette al discorso di articolarsi e all'ascoltatore di ascoltarlo, quello che Saussure ha chiamato il significante, no? Che tutte quelle pause che si presentano tra una parola e l'altra sono lirissimi attimi di silenzio che servono a riconoscere la parola, non sono nient'altro che quelli. Hanno una loro funzionalità, ma non hanno un'intenzionalità vera e propria. Queste pause possono diventare, tutte queste pause si possono, per così dire, stratificare delle intenzionalità. Per esempio il divano o la pagina bianca del poeta, in Garetti per esempio, oppure l'uso enfatico della pausa tra una parola e l'altra per sostenere enfaticamente ciò che si sta dicendo, invitando l'ascoltatore a soffermarsi su ciò che si sta per dire o su ciò che si è appena detto. Prima ancora, al di fuori della pragmatica della pausa, c'è un problema, diciamo, di articolazione e che si possa soggiungere una semantica, cioè io posso usare la pausa dal punto di vista interpretativo, accentuare o attenuare una certa pausa nella esposizione, per esempio nella recitazione poetica, può servire per dare un senso piuttosto che un altro, perché la pausa è uno dei pochissimi strumenti che l'oralità ha di punteggiare la sintassi del discorso. La sintassi del discorso è la pausa, cioè il silenzio. Allora il silenzio da questo punto di vista fisiologico funziona come la sintassi del discorso orale. In particolare ha una valenza interpretativa nella recitazione, in questa esperienza che io sto ancora vivendo, molto laboriosa, della recitazione della Divina Commedia, si accorge come diversi attori, in dipendenza anche non soltanto della loro professionalità, ma in dipendenza anche delle varie interpretazioni che sono state date ai certi versi dantesi, accentuano o indeboliscono determinate pause per favorire o mettere in secondo piano determinate interpretazioni. Di qui il rilievo e la delicatezza di una operazione di controllo di questa recitazione per favorire questa o quell'altra interpretazione. Il paradosso è che questo lavoro di controllo non avviene tanto il significato delle parole, perché la lettura della Divina Commedia era la lettura del testo che vi dicevo di Petronio Cadace. Il paradosso è che questo lavoro viene soltanto sulle pause, cioè sul silenzio, sul valore da attribuire a queste pause. Dunque esiste, per così dire, allora, una dimensione fisiologica del silenzio, della pausa, una dimensione intenzionale e inintenzionale, una dimensione comunicativa e assolutamente una dimensione non comunicativa, cioè un'infinità di elementi silenziosi o di spazi silenziosi o di situazioni silenziose, uno scambio comunicativo che non sottintendono proprio niente, che non c'erano proprio nulla, che non alludono proprio a niente, sono gli elementi fisiologici dell'articolazione del dire. Di questo tipo particolare di pausa fisiologica o silenzio inevitabile, non so come chiamarlo, si accorgono gli studi delle conversazioni, per esempio. Credo che in qualche modo bisognerà accennare a questo fenomeno abbastanza degradato nel mondo attuale, che è quello della conversazione. Pertanto che il nostro sia una civiltà dell'immagine, una civiltà del bombardamento informazionale, la conversazione intesa come accordo di persone che stanno insieme per il puro gusto di parlare è veramente indebolita. Nella conversazione le pause sono gli elementi fisiologici per permettere alla persona che è vicino a noi, che sono in due, o alle persone che sono intorno a noi, di prendere la parola. I silenzi in quel caso servono come dei suggerimenti dati da parte di chi sta parlando alla messa in opera di uno scambio discorsivo da parte degli altri che stanno, che fino a quel momento hanno ascoltato. Dunque c'è una specie di etica, diciamo, del silenzio, della pausa, che nella conversazione bisogna mantenere e ravvivare, perché altrimenti la conversazione diventa un imbonimento o un monologo. Ecco un'altra dimensione, diciamo, interpretativa della pausa, che si dispone però su una base puramente fisiologica. Voglio dire, è inevitabile, ma può avere una determinata finalità. Ora, sgombrato il campo degli equivoci in maniera molto repentina come fatto, bisognerà pur dire che una tipologia del silenzio, se in qualche modo ancora si può credere, io sono sommato credo che si possano classificare gli atti di silenzio, possa essere distribuita lungo quello che è il famoso e famigerato modello della comunicazione della persona umana, insomma. Qui si propina molto in giro, cioè quello mi sente da una parte di sfruttare dall'altra, il mezzo canale, e poi il contesto, e poi il referente, e poi il codice. Dunque c'è un silenzio per ciascuno di questi elementi. Un silenzio dell'utente, un silenzio che compete al destinatario, il puro silenzio dell'ascolto, per esempio. Il silenzio dell'utente è invece un silenzio gravido di aspettativa, per esempio. Mentre sto parlando, improvvisamente blocco il mio discorso, è perché o ho perso il filo del discorso, o perché attendo un cenno di diniego o di asseverativo da parte di chi mi sta ascoltando, o perché semplicemente sto cercando nella mia mente qualcosa da dire. Se poi il silenzio del codice, potrebbe essere interpretato come il silenzio, la inefficienza del determinato codice che sto usando. Allora, in quel momento, mentre sto usando la parola, per esempio, mi accorgo di compiere dei gesti di sostegno o di correzione a quello che sto dicendo, perché c'è una certa indisponibilità del codice che sto usando, della lingua naturale, a sostenere effettivamente il senso pieno di quello che voglio dire. Quindi comincio a gesticolare, comincio a muovere gli occhi in una certa parte, comincio a dover fare degli schemi, dei disegni, comincio a dover fare degli esempi narrativi, che sono un altro modo analogico per rappresentare l'entità. C'è un silenzio poi del referente. Vabbè, questo non è un silenzio vero e proprio, perché come il silenzio dei codici, che poi avviene parlando, non è un silenzio silenzioso, è un deficit della parola, ma non è. E quindi silenzio del referente, cioè l'oggetto del discorso sfugge agli ascoltatori. Il senso come ascoltatore ruotare intorno a me un nucleo di parole, ma non riesco a capire di cosa sto parlando il senso del discorso. Ecco, questo è il silenzio del referente, cioè la realtà a cui ci stiamo riferendo si sfugge, nel senso che non è comune ai due. Ma il silenzio vero e proprio, secondo me, se vogliamo riferirlo al modello comunicazionale di Jacobson, è quello che risiede nel contesto. E quello che qui in fondo richiamano sia in parte il silenzio di inizio, sia il silenzio di chi vuole riposare il proprio orecchio, o di chi è appartato, o di chi si rifiuta di ascoltare. Il silenzio del contesto è il silenzio che si ottiene eliminando intorno a sé i rumori dell'ambiente. La contemplazione, chiamiamola così, non sempre necessariamente la contemplazione, si ottiene non profondandosi al proprio interno, ma si ottiene già cominciando a eliminare intorno al proprio momento elocutivo, situazione elocutiva, tutto ciò che correva a questa situazione elocutiva. Come se, appunto, io posso meditare stando in tram, posso meditare stando nella grande artrosi, posso meditare stando seduto in casa mia, posso meditare camminando, posso meditare parlando con altri, ma sempre ottenendo, realizzando tutte le volte questa separatezza dal contesto in maniera tale che l'evento immediato, diciamo la razionalità del mio operare in quel momento sia sospesa e sia diretta verso un altro fine, in un'altra dimensione. E veramente la contemplazione vera e propria si ottiene quando si ottiene il silenzio dal contesto, cioè quando l'informazione che ci danno i dati storici, ambientali, sociali, di tutto ciò che ti intorno è per così dire sospesa, resa irrilevante. Allora è possibile questa strada verso una comunicazione interiore. Credo che un primo modo per abbozzare la tipologia del silenzio sia questa di schematizzarla attraverso il modello della comunicazione. Un altro modo per organizzare una tipologia del silenzio è quella di riflettere sulle funzioni fondamentali del linguaggio. Chomsky stesso diceva che riconoscere al linguaggio una funzione fondamentale è rischioso, non si può dire che il linguaggio serva a comunicare semplicemente. Allora, per andare semplicemente, diciamo che il linguaggio fornisce sostanzialmente tre funzioni: la prima quella di comunicare, la seconda quella di rappresentare i pensieri, la terza quella di agire nel mondo. E di funzionare. In primo caso, il linguaggio è un dispositivo comunicativo che mi serve a entrare in contatto con gli altri, usando altri in senso vasto, no? Le persone con gli apparati delle macchine, per esempio, no? Quindi, il telefono. Il secondo modo d'essere del linguaggio, funzione, è quella cognitiva, e cioè di rappresentare i pensieri che stanno nella mente, da cui poi tutte le grandi distinzioni, come stanno i pensieri nella mente, come parole, come intenzioni o come verba, come dicevano i tenisti in questi tempi, cioè come intenzioni che ancora non sono parola ma che sono per diventarlo. In terzo luogo, quindi, diciamo, il linguaggio è considerato dal punto di vista dell'orizzonte della comprensione che richiede, nel quale si dispone. Non può esistere linguaggio se non è, almeno potenzialmente, orientato verso la comprensione. Questo è il secondo modo cognitivo del linguaggio, mentre il primo non ritiene la comprensione un fatto essenziale, perché comunicare è in quel caso una pura trasmissione di informazione. Per esempio, tra parentesi, la definizione vera e propria di comunicare è guardata all'inizio. La terza è il modo d'essere del linguaggio, quindi poi vedremo che tre silenzi diversi ci stanno dietro. Questo modo d'essere del linguaggio è il linguaggio come apparato fisico sensoriale. Cioè il linguaggio, la lingua intendo sempre, è una storia naturale che mi serve per dire che io sono qui, quella che si usa in una conversazione, quella che si usa quando ci si incontra, quella che si usa per rapportarsi con gli altri indipendentemente da una volontà di comunicare, come si usa la mano per stringerla all'altro che si usa in un incontro, come si usano gli occhi per guardarsi negli occhi, la parola ha questa funzione corporea, no? Determina e certifica la presenza di qualcuno e la intenzione di mettersi in contatto. Di questa parola corporea poi si può aggregare a questa parola, questo terzo modo di essere del linguaggio, il discorso che si potrebbe dire che una parte di questo discorso potrebbe creare, che non so, forse un altro quarto tipo di linguaggio che si agglutina e si distacca da questo terzo. il linguaggio che non ha né l'intenzione di comunicare, né quella di rappresentare dei pensieri, ma quella di figurarsi come un modo di essere inevitabile dell'uomo nel mondo. Allora, dietro questi tre tipi di modi di essere del linguaggio, probabilmente ci sono tre silenzi. Il silenzio comunicazionale è la pura assenza di comunicazione. Si certifica, si evidenzia quando nulla viene trasmesso. Il silenzio nella rappresentazione dei pensieri non è semplicemente soltanto necessariamente un vuoto mentale, è anche quell'attimo, quel centesimo di secondo, o anche un minuto, che io spendo per cercare nella mia mente quello che devo trovare. Ecco, in quel caso il silenzio potrebbe essere anche più lungo, quando uno studente davanti a me, che non riesce a rispondere immediatamente alla mia domanda, in quel momento di silenzio mi sta compiendo un tumultuoso lavoro di ricerca. Questo tipo di solaio, no? Sgombro di ogni genere di cosa sono solamente. Poi ci si legge invece del corporale, del linguaggio. Allora abbiamo di fronte a noi magari una persona che parla continuamente, che rappresenta la figura dei pensieri, ma che non riesce a rapportarsi realmente con noi, non riesce a trasmettere il senso di conoscenza. Questo, ripeto, allora era un altro, può essere un altro modo, in base alle funzioni che ha la lingua storica naturale, ci può essere un modo per tipologizzare, per organizzare, per classificare gli atti del silenzio. E forse di fare un po' di ordine intorno a questo problema. La terza possibilità, cioè, intorno a queste tre possibilità, io volevo oggi semplicemente approfondire per concludere una soltanto, richiamandomi al discorso su Dante fatto precedentemente, per dire in fondo che, rigionandole al XXI canto del Paradiso, in cui, settimo stella Saturno, siamo di fronte a pergamiani e contemplativi. Tutta la commedia di Dante è punteggiata da un atteggiamento, io uso il termine primitivo, adesso uso il termine selvaggio che sono usato bambino e questo punto di più, un atteggiamento quasi selvaggio nei confronti della parola. La parola è un elemento quasi di controllo della situazione di felicità discorsiva nel quale si può disporre Dante nei confronti di Virgilio verso le cose che vede, nei confronti di Beatrice verso le cose che non conosce. Cioè, naturalmente prima di questa una distinzione tra Dante poeta o Dante autore o Dante personaggio, ma comunque tutta la commedia di Dante, sia che lo veda come personaggio sia che lo veda come autore, è costellata da questo atteggiamento misterioso e nello stesso tempo incerto che ha nei confronti della parola. Dice nel XXI canto, parola che ho detto ha delle dimensioni barbare, o per così dire, no? Per dire selvaggio, cioè non articolato. Cioè, la campanella che si inclina nel XIV canto, le voci degli animali, le voci della natura, il vento che diventa voce nel canto dei sicili, i sussurri, le balbuzie di cui si parla ancora nel Paradiso. Non è caso di Paradiso. Tutta questa serie di dati, di voci che ci sono dentro la commedia, che non sono le voci umane articolate, diventano nel XXI canto, assumono nel XXI canto una dimensione credo teologica, al mio punto direi cosmologica. Il canto dei contemplativi e il canto del silenzio. E di questo Dante sembra Dante personaggio, non Dante autore, sembra stupirsi, tanto è vero che è sul punto di chiedere a Beatrice che cosa stia succedendo lì, perché improvvisamente tutto si sia sospeso, perché tutto il silenzio abbia riempito di sé quel luogo. Ma quella è un Dio aspetto il come e il quando del dire e del tacere si fa. È un Dio contro il divio, fobenzio non dimando, per quella che vedeva il tacer mio, nel vedere di colui che tutto vede, mi disse, fogli il tuo caldo di Dio, e Dante fermò la sua domanda. E chiede, giù perché si tace in questa rota la dolce sinfonia di Paradiso, che giù per l'altro suona si divota. E per chiudere, forse molto velocemente, constatate qui che si presenta in quello grande settore che adesso tra poco in altri movimenti sarà presentato, cioè quello delle rappresentazioni del silenzio. Io fino adesso ho parlato molto a tratti del discorso del silenzio come discorso. Poi per capire effettivamente che cos'è il silenzio nella dimensione umana bisogna vedere com'è rappresentato ed è come è raffigurato visivamente, com'è raffigurato emblematicamente, metaforicamente. Una delle configurazioni tipiche del silenzio è quella della fissità, no? Tanto è vero che, dell'oscuramento, tanto è vero che si usa il senso della vista per parlare del silenzio. E Beatrice, per quella che vedeva il tacer mio, vede il mio tacere. Per la via Girona, ancora più oltre il dito più al bocca, c'è anche la maschera, insomma, io, quella che ha ostacolato il senso della vista, il senso della compressione sacrale. Il fatto poi che Dante chieda perché si tratta in questa volta la dolce sinfonia di Paradiso, il suo motivo che nasce dal fatto che sta facendo la sinfonia non ci sia più. Il termine del canto ventunesimo è scioglie qualunque equivoco, meglio ancora di Beatrice. Queste fiammelle si dispongono tutte in maniera così densa, così vigorosa, una conflagrazione, ma intorno a questa vennero a fermarsi e c'era un grido di più alto suono che non potrebbe più assomigliarsi. Né io lo intesi, chi mi vinse il cuore. Il bel canto in cui settimo, quindi la più tutta una parentesi che non riesco a aprire, perché è il settimo canto, perché i contemplativi, cioè la dimensione di Saturno, melanconica di Saturno, per cui la vita contemplativa, la vita silenziosa, la vita è dominata dalla cogitatio, no? Anche nel pensiero, proprio per dire, astrologico in qualche maniera, che poi si sposa attraverso Agostino con quello della scala degli esseri di natura. Ci troviamo nel campo in cui in sostanza alla dimensione della dimensione del silenzio viene rappresentata da un tacere di Dante, cioè dalla curiosità e dall'attonimento umano, e d'altra parte figurato da un grande tuono. Un'altra volta Dante, per dar voce al silenzio, non può esprimere attraverso la parola, ma attraverso una voce naturale, un suono, un vento, un sibilo, un muggio, un mormorio. Tutte le voci che nella dimensione del silenzio sono assolutamente familiari. Credo che, pertanto, che il mio discorso sia stato fin troppo forse denso, possa organizzarsi intorno a un atto di questo tipo. Riflettiamo sugli usi pragmatici del silenzio insieme agli usi rappresentativi del silenzio. Cioè, da una parte, per capire come si silenzio da un punto di vista semiotico, vediamo da un lato quali sono i suoi usi pragmatici, dall'altro come viene rappresentato, se volete, nel simbolo di questa genere. Quindi è soltanto, almeno questa è la prima che io pratico familiarmente, dall'incontro dello studio tra la dimensione pragmatica del linguaggio, inteso come adattamento continuo delle conoscenze e degli usi da parte di uno nei confronti degli altri, perché in fondo la pragmatica è una teoria dell'adattamento, dentro questa pragmatica come teoria dell'adattamento scopriremo la dimensione del silenzio, ma non potremo scoprirla in fondo se non attribuendo a questa dimensione discorsiva dei valori. Se non ci sono, non ha più senso parlare del discorso. Questi valori sono da cogliere attraverso il sistema delle rappresentazioni, che sono rappresentazioni mitologiche, che sono rappresentazioni sociali e che sono rappresentazioni culturali. E per finire, se mi consentite un piccolo richiamo all'esperienza personale, io ho avuto il privilegio di diventare mezz'ora nella Grand Surprise l'anno scorso a Pasqua, e di sentirmi dire dalla persona che mi aveva accompagnato, monsieur votre plaisir quand je camminavo e le mie scarpe facevano rumore, perché in questo grande arcato dell'interno nemmeno il rumore delle scarpe era accettato. Allora, dopo che io ho richiamato le mie scarpe a un atto di compulsione, ho riflettuto sul fatto che per fare silenzio non è sufficiente tacere. Ringraziamo il professor Cappuccini per questa tipologia, estremamente affascinante, interessante. In genere le tipologie correnti sono tipologie psicologiche, cervalesi, in ascoltare il silenzio, ricorda che per lo più si fa una tipologia psicologica. E questo chiamare l'attenzione sul tema della pausazione e sulla dimensione pragmatica del linguaggio, che è estremamente importante.